Le piacevoli notti. Libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Introduzione alla decima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini. Notte decima. Già in ogni parte gli stanchi animali per le diurne fatiche davano riposo alle travagliate membra, chi sulle molli piume, chi sugli duri ed aspri sassi, chi sulle tenere erbette e chi sopra li fronzuti albori, quando la signora con le sue damigelle uscì di camera e venne in sala, dove già erano raunati e compagni per udire il favoleggiare, e chiamato un servente, la signora gli comandò che portasse l'auro vaso, e, postovi dentro di cinque damigelle il nome, il primo che uscì fu di Lauretta, il secondo di Arianna, il terzo di Alteria, il quarto di Eritrea, il quinto di Cateruzza. Ma prima che si cominciasse il favoleggiare, volse la signora che, dopo fatte alcune danze, il bembo cantasse una canzonetta, il quale, non potendosi scusare, così soavemente cominciò, tacendo ciascuno. Mancato è quell'umor e quell'ardore, che già mi die possanza di ragionar con voi e infin speranza di conseguir l'ultimo don d'amore. Già sento venir men omai la forza ed appressarmi a chi cercano tutti vanamente fuggire, che questi sono i delicati frutti che escon di questa scorza. Dopo tante fatiche e gran martire, per ultimo rimedio di così lungo assedio, e in questo par che l'alma si conforte, cangiar l'amara vita in dolce morte. Piacque maravigliosamente a ciascuno il cantare del bembo. Fine dell'introduzione alla decima notte. Registrazione di Roberto Cofini.